attenzione 10 K. Attenzione canale 10, copiate Antonio KK. Attenzione canale 10 K, c'è qualcuno? E allora, chi è? Ciao a tu! Oh, ciao! E beh? Come mai in frequenza a quest'ora? Qualche volta! Aspetta che devo fare la foto al PMR, che c'è uno che è interessato. Ok, beh, ti arrivo, ho fatto una modifica. 9-10, adesso 5 super. Va benissimo. Io ho sollevato l'antenna di altri 2 metri e mi ricevono anche meglio. Io ti sento forte. L'antenna ho sollevata tu. Questa qua. Aspetta, fammi andare questa frequenza qua, Matteo. Va bene. Ho sollevato anche io. Che lo chiamo a vedere. Prova. Sì. E ti caschiamo tutto in diretta, guardami. Allora. Dunque. Allora, Bopponi. Bopponi e due, ecco qua. Sì. Adesso lo scelta, sì. Beventi, ho dormito. M. Bopponi. Ah, accendi sul 10, ga. No, non sono a casa, sono fuori. No, c'è, cioè, dove sì? Sono a casa mia sorella. Oh, ma sì, non c'è il suo palazzo allora. Beh, secondo te lo metto. Non sei da Giovanna? Sono a Giovanna. Il fatto che c'è anche l'antenna che... Che cosa non ti ha raccontato ancora? Sì, ma non ho fatto più vento, non ho pensato qua, sono arrivato, già passa anche tu. Già ha fatto ciò che spacca la lumizzone, blu. Ma oggi la bella mi sono di questo, non lo so. E anche ieri ha fatto bella giornata, perché io ho lavato la lavatrice e me la giornata anche ieri. Ah, e tu non hai fatto nulla, bravo, sì. Volevo sapere come arrivava coso, Roberto, perché ha cambiato un'altra antenna, ha messo. No, ha messo un'altra antenna piccola. Della macchina? Sì. E dovrebbe arrivare meglio comunque, per quell'antenna è un casino, è quella a Ringo. A Ringo già lo sai cosa vuole fare, vuole appena appena sulle fronte, mette una fitte. Il test è continuità, non me le dà, sbloccato in massa, così i zenni. Ma sto dicendo io, per quello. Vabbè, comunque se vuoi entrare, attacca l'antennino e cosa lo dica. Al limite dopo, quando rientro dai rossi, scendo un attimo dai rossi. Vabbè, già siamo sul 10, dai. Ok, ciao Bopponi. Ciao. Hai capito, Robe? Non devo uscire, va. Ma ce l'ho sempre che vale lo sfido, no, faccio le pizze, non piglia la birra. Ma il pugna è. Di più, lui va a mezzi birra, ui. Tu pensa che una volta e poi va. Va bene, il suo baracchino quadribanda. E lo voleva dare tipo 100 euro. Ma io, la verità, lo volevo comprare, poi to. Ma è stazione fissa, non piccolo per macchina, non lo voglio, non mi piace. Adesso si può capire. Ha messo di mi servono perché mi devo comprare quella moto senza targa. E da me cosa me ne succede voi? No, lo voleva recuperarsi quella moto senza targa, capito? Con il motorette tipo macchinette. No, lui prende il rito, prende. Non so, sono leggere. Chi si scudo che muffo si dice paradura? No, uno farà da ripetere in questo, capito me. E io sono curioso di che avevo buccia l'antenna, che non si vede, che. Boh. dietro. Dove alzavi tu la gamezza, che c'hai però? Dietro là. Come è salito, fu già salito. Da quello del bus. Almeno l'altra usciva da lì. Non usciva forte, però questa di quelle è uno stilo di un'antenna, proprio di un'antenna di testo. E l'avevo bugata, l'avevo fatto modifica sotto. Ero allora all'epoca con le Baobab. L'avevo modificata tutta casa, e poi l'avevo posto con il cazzo di sette paracchinocca, che era 40 canali, quello verso per l'ultimo, se c'è le cose così. Il cazzo l'abbiamo aumentato di potenza, a mezzo fatto, e tu chiamavo a mezzo fatto. Sì, a bobo. Anzi, io voglio chiamare a Gianni a vedere se accende, a vedere se li arrivi. Dovresti arrivare comunque a lui. E io si trova tu. Sì, Gianni già si ricorda di te. Aspetta, allora. Doppio. Ecco qua, andami. Ok, riesci a vedere? Se avevano dormito le cassette. Che so, 5 meno 10. No, non deve essere prezzato. Rispondi, ti stanno chiamando. Sentelo subito. Piacete ora collegati al servizio di segreteria telefonica. E finita la luce della segreteria. Allora facciamo il numero di casa sua. Allora. Doppio casa. Doppio casa. Avanti. Non sono in tutti, c'è un solo numero. Ma o c'è le cuffie, sta cantando. E allora va a fa cuffia. Già risposto, e sta dicendo, io stasera mi ha contattato uno di Caserta. Mi interessa il mio PMR, allora facciamo scambio, lui mi dà 3 baracchini, poi mi dà uno è un tipo armettatore grande, però fa da rosmetro, battimetro, e manda bene. Quello cos'altro mi dà, non so se mi dà capo, se mi dà, mi dà un bedumbacco e gli do il mio PMR e poi c'ho altri 2 apparati HF, che è lui il cervolo, che io ce l'ho portato di qua, ma so però ma a me non mi interessa, ci ho buttato una parte, gli do anche quelli di Mondezza, no? Mondezza mi dà 2 pendezzi dopo io. Chiamo di Mondezza, e cosa vuoi fare? E quindi la credi se vuoi che arrivi a chiacire e poi c'è di viccio. E beh, era un viccio. Noi siamo vicini ancora, vedi, lo intendi? E allora, grazie a noi c'era sera, era molto dormaceria, con Antonino, no, la Biara Garri. E parlando, e c'è questa signora, e ho detto io, a me signora, le metà che ho, nessuno me la dà. E cosa c'è, 79 anni, le devo dire, di caria di doggia, la mazza di infaria, 69 non ho 79, no. E ho detto, coglione, le devo dire, tu quanto ne hai, 90? E vincia era me, ma mi vincia. Cazzo, boh. Avevo pure a me, ma vatta, mi do girato io, cazzo, boh. Cazzo, la mia vincia, vabbè che da sempre di a poco, cazzo, è che è possibile. Vabbè, lascio tutti gli anziani, comunque, boh. Ma va, piano piano, scusate, 90 anni, e a me mi posso arrivi pure 90 anni come ti giocava, non mi pare vero. Poi, ma dimmi tu, ma c'è nessuno su questo canile? Perché lì ci va un po'. Poi tre canili. Ma c'è il mio sito, la voce di Giulio ho già atteso. Attenzione Giulio Dollaro, ci si. Attenzione Tatalino, ci si. Non vede nessuno, chissà. Catarici Bucco, vi sono in ascolto. Ma e E perché non si parla? Non penso che sono in giro. Stava per la mezz'ora di soffrire il caffè, va. Mi il vostro caffè mio. Che c'è una gana, che tu cani caffè? Allora, rimaniamoci sul baracchino, io un attimo mi sposto a fare il caffè. No, io faccio con la macchietta, faccio in fretta. A me 2 minuti già pronto. Col monitore, non con la moca. E capita. E così ti chiamo poi, non più, ti chiamo l'americano. E anche io. E io ho quella macchietta, si chiama il pinguino. Attenzione, pinguino. C'è propagazione, 101, 702. Per lui, lo senti? Io te lo sento. Attenzione, su papà. Trullalì, trullalà. Questo è forte. Attenzione se senti un'altra tomba, cambio passo. Dai, mi uso il caffè, no, dietro subito. Roberto. Io ho già fatto. No, io ho già bevuto. La mia fa veloce. E poi il caffè, no, io prendo quello gotardo che si chiama, è tipo ginseng. Io prendo il caffè subito per mattina, per il latte e per colazione, quello sì, metto uno, due cucchiaini e via, giro e si su diventa caffè latte. Ho preso anche il cappuccino, quello in polvere. Cazzo, non è scaduto, è diventato tutto che la balla, come ti mai? Oh, d'estate. Ma io per un po' di giorni l'ho raschiato poi, e piano mi andava a essere un lampo, si abbia luci. No, lì le faccio, quando vado in bagno le faccio corazzati. Attenzione che se diventa dolce la palla le faccio un lucamento. Attenzione sul canile 10, c'è qualche mau mau. Cazzo, i no, che in campagna per esempio domenica. Attenzione canile 10. Cazzo puffi. Poi io sfido chiunque che si può morire a mortate. Oh, io poi Sant'Antonio di Gallura. Mammano Baromi, più di 1000 watt, da Sassari. Oh, a chi si mangia lo fa vedere tutti io direttamente. E beh, chi c'ha che da Vittorio? Non ti sento pure, di solito venerdì va fuori a Santa Teresa e poi ritorna domenica sera, invece va nulla, è rimasto anche. No, a lui non gli piacciono queste cose. Oh, e cadere giù Antonio, ha visto tra quello che avevo io, dice, con chi parli, con i marziani. Ma da me si vede tutto. Io sto pensando un'altra cosa. A prendere uno di quei palloni grandi, gonfiarlo a elio, pigliare l'antenna, alzarla a 20 metri in alto e lì alla sotto. Ora mi arrivo forse tra i lunghi. Chiedi si può, ce ne si vede a casa, no, io sono a casa mia. Comunque anche se il suo grattacielo l'ultimo piano andava in me, con la tenina 2 io arrivo a fotoscalare tutti. Chiedo buon purio, non sono a casa, sono da mia sorella, tu sei da casa al piano 18, dico che assai fasi mezzi gradini e manco è già casa sua. Ma era senza un po' di dubbio. lasciamo il bicchiere. Non mi proprio la birra, non mi piace. Ho preso anche qualche mattina io birra a limone, assaggiato un goccio, poi boh, l'ho aggiunta da 4 lattine. A me piace il succo di corno. E così di là. Cos'è bella, anche di pensione. Io ce l'ho qua per la gozzerilla. Non mi hai detto se guardano la televisione. Ciao. No. Oh, yeah. Strano che non c'è nessuno, ragazzi. Ma è che c'è niente, boh. E non c'è mai nessuno. Ma se tu non entri, io che non mi faccio mai nessuno, ragazzi. Boh. Tra Drogande e Natalino, attenzione canale dei fantasmi, si sì, fa cosa fantasmi, anche non mi va nessuno in occhi. Preccase! Minui, M a do, più basso sì. Come più basso? Ma no, adesso si è tornato normale. Guarda se senti l'amico mio che è a fianco a Roberto. Vai Roberto per Antonio. Sì, io già lo sento, lo sai. Magari lui non mi sente perché ho questa figlia. Caffa, salutone Roberto. Roberto chi? Roberto Drago Rusci, Drago Rosso, Arambina. Ah, caffa. Ma non c'è un gran segnale. Dove che tu la sei? Vicino a Tonino, ma sono con una figlia. Ce l'ha metto, lo senti? Sì, lo sento, lo sento. Vabbè, anzo. Vabbè, lui è a Ribadelta, me. No, latte dolce, è vicino. E vabbè, ho capito. Dove dice quando arriva? Tu c'hai un mantellino poi tra l'altro. No, io ce lo sento, e magari si sente molto meno per quella. Cappa, avanti a tu, Antonio. Ehi, dimmi. Riprenditela. Cappa. No, stiamo ascoltando. Noi lo ascolto molto basso l'amico, però lo ascolto, va. Purtroppo, così c'è precario, un antennino, bisogna rimediare con un'antenna musieve, ma ormai che arrivi molto su di lunghi, che... Gappa gappa! E tu che antenna stai usando, a tu? La bumera! Vedi, anche la bumera a te ti andava bene, mio Robè. La bumera ti andava bene anche a te. Quella grande! Ma bella che sei andato quella cosa, la mando quasi bella di già... Io ho un bazooka, ma sono sicuro il bazooka, non so dove arrivi, No, si chiama così, ma è mantenuto a non fare a nulla, e poi te lo voglio far provare, raga. E beh, già si sente però. E dopo te lo passo in bazooka, così lo prova che quello provi, tanto non ne posso usare. Cosa dici tu, col bazooka meglio dell'antenina o di macchia? Si è messo in alto, già funziona, la forma, cos'è, chi sa mai? Quello tubo nero, il bazooka, il famoso bazooka, un tubo nero lunghetto, sarà 50-60 centimetri. No, un metro. Non c'è un metro, tu vai, che mirolita. Io, quella che ho un metro. Quella che c'è tu, quella che ho io, questa l'ha data Manuela, beh. Sì, allora è proprio un roccio di copero, c'è un rocciarello, Ehi, infatti la gente sembra questa, chissà, ma caroccia ribica. E poi c'è un'altra antenna che non va bene perché è un VHF. Non va bene per il VHF. E quella la usavo per il PMR io. Robison. Un caffè pigliato direi. Ma non è fatto una macinetta, no? E capita. Anto, poniti roba nessuno in frequenza, roba in nessuno. Boh, aggiungere fa da Gianni, nuda. Oh, ma qua riposo, sarà con i cuffi che attendi. Ma se entra, ma sta tranquilli. Va tutto bene. Vabbè, vai. mai, se hai non accende il baracchino, non c'è mai nessuno, se tu non accende come ti fai di che non mai nessuno, va. Infatti Natalino, Natalino si è entrato, attenzione canale dei fantasmi. Vabbè. Io la clanghetta, giovedì mi cambia le gomme, roba. No, però ce l'ho nuova che le ordinate mi sono arrivate, però me ne ho ordinate due, c'ho quattro, poi c'era giù pagate, lavora contenti, via internet, io in due giorni mi sono arrivate. E allora, comunque sono andato, ho telefonato a gommista, cosa mi prendeva? Permettimi, quelle di dietro, davanti, perché fanno così, e quelle nuove che ho io ce l'ho già due ruote, me le mette dietro, e 15 euro l'una, ma io sono macchina. No, perché le gomme non le prendo da loro, allora mi faccio pagare solo per piazzarmi, l'hai capito? Ma me la faccio io, perché ho 30 euro. Un altro 25, insomma è un po' più barato, 12,50 euro, quello di Canica. Quello invece che c'è via Milano, la sessione delle gomme, boh, 30 euro. Un'altra che si chiama Tamara, vicino alle Rospie, prenda niente, che c'è boh, 30 euro ma stessi. Cosa tu? 30 euro la gomma. No, 30 euro due gomme. 15 euro. Hai così, eh? Perché non stai comprando le gomme da loro, ho capito. Non so macchino. Ma guarda, se a conti fatti, io mi sono fatto i conti, non mi fa mettere la loro. No, ma io ce l'ho risparmiato a caso di soldi, sono belle, cazzo, bel disegno. Io compro sempre da queste qua, mi trovo sempre bene. Anzi, adesso mi hanno mandato pure il messaggio che c'è uno sconto di 40 euro. Pensa un po'. Adesso io lunedì che domani me ne ordino altre due. Le mie sono esattamente... non me la metto che farmi giù. Adesso non me la metto, cazzo, metto un capo che va a giocare. 190, così, no, 195, 50, 15. Sì, non è mia quanto gli ho pagato, 120 euro. Se ne migliori lui, non che questa roba di tanto, non conviene. Io ho cerchioni in lega, quindi sono molto larghe, capito, la sezione è larga. Ma stai attento, c'è un po' di gomme cinesi, ci sono, non si vede. Perdi da voi, non sono gomme buone. Ma io queste qua le ho comprate anche una della Ford Focus. E grazie a Dio sempre quei 2-3 anni tranquilli, io li posso chilometri. Tanto io al mese, non voglio esagerare, ma io 2000 km me le faccio. Ma che gomme sono? Aspetta, cosa sono? No, non sono Pirilli, ma sono Dunlop, mi sembra. Dunlop c'è una buona marca. Io sono sempre in giro, sempre in giro. Non è così, Robert, non vedo quasi mai. Dunlop è una buona marca. Roberto si è dormito, Roberto. Attenzione, Dragos. Ma è cosa è successo? Ho andato in bagno, ha detto un caffè e ha fatto male, ma sì. Comunque Dunlop è una buona marca. Veglia. Poi c'ho le Bridgestone, quelle sono, le usa anche la Ferrari, sono buone lo stesso. No, Bridgestone non mi tratta di Ferrari. E cosa trattava? Bridgestone. Ah, chiedo Birilli, vabbè. Io quando avevo 112 Abarth usavo le PCI della Pirilli, belle, belle veramente. Buone. E niente, io ce l'ho conservate, queste gomme. Adesso me le piazzo mercoledì e giovedì, perché lunedì mattina ho fatto troppe cose urgenti a fare. Me le metto in macchina, vado a gommista, io piazzo a Mici e buonanotte. Intanto da domani sto già ordinando altre due, che mi pare fosse 3-4 buonanotte. È anche più tranquilla la storia. Quanto ti vengono tra piazzare tutto? Quattro gomme sono 50 euro quello più baratto. 50 euro l'una? No, ah, comprando, sto comprando. Tutto compreso. Allora, fate il conto, sono 4 gomme e 200 euro, a 50 euro l'una da fuori. Sono 250 per piazzate pure, no? Sono 25, 2 gomme, sì, 250. Sì, secondo me trova bene qua. No, così no. Oh. Qua me l'ha fatto 70, minimo 70, se no sono 80, 90 euro l'una. Quanto l'hai pagata la singola gomma? Quanto l'hai pagata? Singola gomma l'ho pagata esattamente 50 euro. Mettici il montaggio. Non è che... Vabbè, così intanto. Siamo lì, però c'è la soddisfazione che io da loro gomme non recuperei più. Ma ci sono... La carità è come chissà da di me. No, già ce li hanno buone. Io mi figlio di Giuseppe, lo conosce a Mazzigano. E dove ce l'hai gomista? Gliela porto a Torres. Ma è le Gigi gomme? No, dietro è cazzo, è bucciuto, dove c'è il bucciuto. Boh, non lo conosco. C'è il coso, come si chiama? Dimmi dove rimane vicino. La viuzza, Viale Porotos che si gira. A Tadromazzone? No. Dimmi dove allora. Vicino all'Aerospin. Vicino all'Aerospin. Cosa c'è vicino all'Aerospin? Ah, ho capretto, sì. La viuzza che poi ti porta anche a Prevanita. Sì, sì, passa tutto dietro, ho capito. Andare. E beh, è isso che è barato isso. Se c'è un'officina. Sì, quella mia sorella la mette le gomme là. A Giuseppe Mazzigano. E me che si miglia chi c'è? No, non lo so. E voglio chiedere quando mi prende a fare le gomme mie, piazzarmene. Ho visto le gomme, c'erano già le gomme, cosa posso? Mica recuperare già Eddie. Lui ti cambia tutto, eh? E lo so. Io dovrei fare, vabbè, loro fanno anche l'equilibratura una volta che io automaticamente metto le gomme. A me io devo fare anche la convergenza, vorrei fare. Allora, ma io... Convergenza sono già 35 euro, ti stoppo. Roberto, sei rientrato? Ho capito, il caffè io pensavo che era una doppia C invece. Ma la Focus cosa c'ha la tua? Ma cos'è? Turbo diesel? C'ho 1009, c'avevo turbo diesel Focus 115 cavalli. Ma poi si è andata a farsi friggere. Allora, seconda mano, io ci ho fatto altre 190.000 km e poi si è fusata. Avessi piacere camminare. E tu pensa che la macchina che va già va. E quando mi ha dato mio figlio era 180.000 km. Adesso ho 290.000. Già lo sai, perché ho così messo sempre in giro. Ma sentiamo che c'è, già mi vede che c'è sempre. Sì, già non me la spunto. Adesso devo farli però la CS distribuzione e due giunti boccetti che mi devo mettere. E poi sono a posto. E c'è quella che vuole, alleluia. Con la benzina che aumenta ad esempio fa carità, sta calando piano, sta calando. Io la metto la piazzetta che costa di meno. Avanti Antonio. Io non messa la quinta. Che moto c'è? Non sai che ti ho visto con la motoretta? Viaggio NDR. 50 Ehi, ma te si moto che si è caggiato una cucchia? Sì. Capita, e me, non ti ha risarcito il comune. Smetta. Non ti ha dovuta? Ancora no. Sì, sì, sì. No, io l'ho tratto bene, adesso un po' porca perché c'ho. Sempre io uso sintetico, ma non è proprio visto gli altri. Va bene. No, beh, sai cosa facevo io quando avevo il 48? Ma mi trasfillo. mettiamo l'ore di origine, non sei fatto io, quando passavo veloce, poi facevo il giro giro tondo, ne passavo un fianco mozzinoso. Ehi, ma non mi fermare le pistole, capito? Quando passavano adesso voleva la mano in campo, e poi la mano in naso, e punci che punza! Passava lì la palla, troppo dopo qua. E quindi è un casino che fazia, ma carezzai. Non pensa a cadere benzino, ma non mi traspira, dal biciclo imparato, sono uscito, ma nel biciclo delle carabinieri con la sirena, e io, un cazzo mi fermo, oh, cazzo, gira Porta Nuova, e sempre da lì due ci ho fatto sempre che dritto, a ripesso, oh, la mia sfiga, cazzo, oh, senza miscela, cazzo, e poi, se ci ho fatto impresa, e ho detto, dovete pregare che non c'ho benzina, sennò mi biglio. Ti mi hai fatto un verbale marmitta rumorosa. Meglia. Un'altra volta c'avevo il Cagiva 50, meglio lo scooterino di mio figlio. Mio figlio è seduto dietro e io davanti, stavo guidando io. All'imbrunire stavo scendendo invece a fianco ai giardini per girare Porta Nuova e ho superato questa 600, lì l'anziano, 600, Fiat Vicia. Cazzo, mi suonava giù la mano, cazzo, ma vai a fare quello che con la mano, ci ho fatto così, giro a Porta Nuova, mi sono passato e mi blocca. E cazzo, a mio figlio gli sto, ma te mi hanno otto. Mi riparo al prossimo terreno, mi dico, ma un gutto, se è asciugato, molto, la prima si scende per due, giù mi cazzo, cazzo la mano, cazzo, pensavo che era un pezzino, cazzo. Allora, dopo quello che ti vuoi? Non si giure, cazzo, si è paratura. E adesso pensavo, due pezzini, no, allora posso asciugare. A me si è asciugato questo. E allora, ma, come l'hai combinato, minore? Una cavolta abbiamo comprato la moto, il mio Roberto Vera Mariani, e Matteo Gammeccia aveva truccato il cavo verso il 50, tagliato gli scudi, ha messo un motore GS175 sotto e me l'ha comparata a 30.000 franchi, mi pare. Allora, secondo me, gli anni che furono, 70. Comunque, ho fatto il cavo, mi fermano i falcone, si vici, alle biciclo. Questa moto è truccata, ma quella è truccata a fine nera che è 50 e mi batti, ma se c'è una vetra che fare un aereo, comunque sequestrata la moto, è uscita a fine tribunale. E il giudice ha detto ai vigili urbani, avete verificato se la moto l'ha truccata lui o l'ha comprata così, come gli sostiene, e i vigili sì, lui l'ha comprata così e l'ha fatta l'officina meccanica per Lomberto, e mi va il giudice, allora, se lui vuole ritirarsi la moto, deve pagare una multa, non so di quanto, e farsi 2 mesi di arresto. Se invece la moto non la vuole ritirare, una piccola multa di 3.000 lire e la moto rimane sequestrata. Ha detto tenetevi la moto. Lo signor da pizzini ancora più minori, robè. Sassa di Viccio, quando viene le vecchiette che mettono il braccio di furo con il diavoletto, cazzo di morire Rosario di Grusso, cazzo come si ha accoppiato una macchina, ma chi ha vinto il diavoletto? E la Viccia, ma chi so che carbone mi ha dato che non semi? Cazzo, ma si mette la pizzina a mezza. A tu, mai l'hai fatto? No, era più brutto non battando per andare a cambiare, per cambiare. Sì, capitano, lo mangio sacuto, robè. Ma se c'è peggio il batti, tutto si batti. No, noi ci mettiamo il sale grosso. Sono andata a pupù, cazzo, batti, lo diavoletto. Cazzo, picciando le risate del menamento che si deve. E me lo scherzi così, dai, leggeri. Cazzo, spero che... Ma succede quando no, la vicina da a soffiare, un brasile, cazzo e pazzi, un diavoletto. Bestiale, guarda. Ma facciamo pure pezzi che è monazzino, ma chi ha, perché se no è un casino, veramente. È un casino, eh. Io sapevo che Brasile, un po' di sale grosso, me lo mette in tasca. Allora erano dispetti tutti che si facevano. Ha allora eravamo pizzini a tu dai, ai tempi, non è che va. Ma noi ci divertivamo, facevamo un rosso sotto le risate, cazzo, non dopo, a divertimento. Mi dici un cazzo in Brasile, abbiamo detto che sarebbe sparato le pelate grandi, ero da chilo, noi teniamo sotto e sopra e lo mettiamo sopra a fare il diavoletto. E pazzia, cazzo, divertimento. Mi scoppio. Eia. Oh, ero letterato nessuno me, qua, che ragione? 5:30. Oh, Puzzi, sarà ancora veramente ragionita. Oh, yeah. E Sognaruzzi mi ha ceccato. Io mi sono messo quelle strisce a LED che schiaccio e l'ho messo tutto il lungo dove c'ho il baracchino. Sognaruzzi che fa, mi ha ceccato qua. Me era ricordo, me ha fatto buttato un pizzino, no? E beh, c'è un tempo va avanti. Quasi un anno, c'è. E allora c'è già la benzina. Comunque, Robè, io sono sicuro una cosa, che l'anagrafe ha sbagliato la data mia di nascita. Anch'io mi sento giovane 35 anni, voi. Eccolo qua. No, per le prestazioni che ho e tutto il resto. Ma che strano, ragazzi, boh. Eia. No, me ne sento, non dico grazie alla vecchiaia Carroglia, no, grazie a Dio, come se fosse. Però dico grazie a buoni soccorrenti che ci die, Lighetti, poi oggi domenica, grazie alla faria rimane domenica, va, torna domenica. Stavo volando settimane, mesi e gli anni, va fra buco ad andare, brutto, la ceci. Troppo veloce, cazzo, boh. Stanno volando il tempo, cazzo. Penso che era la carriera, ha giocato militare a Disalobane. È che l'ha fatto girare Superman, ma... E vabbè. È la guerra santa, è sempre esistita, l'hanno sempre invasa, la gente scorda, cosa si muore in mezzo, che dà cameroncino e vanno di cosa, ma a chi non pensa agli italiani, e fare a me la pensione come si deve, è un travaglio come si deve, poi che mi dà più fastidio la sinistra, la paga base, cioè lo stipendio minimo, come ti pare su che lo fate andare, la vendita in più all'operaio, come i 13 anni governo loro, non hanno mai fatto nulla, a macchi veri, la dritta al governo soffre di casino, ma che non mi dice a mezzo. Ma che mappesi che sono tutta una massa di pagliacci. Io so solo che la benzina è aumentata ed è un casino, boh. Anzi prima morivo un ventiero, mi durava 3-4 lì, e a fare il mago ventiero, uno o due lì non viene più, boh. Non pagliacci e basta, ma no, io non credo più a nessuno. Sai come me, non ci vado a votare, faccio con gli addezzani, sono a votare, non vado. Dovevo bucare le accise, la mazza ieri fa, insomma che di, le accise della guerra di 70 anni fa, ma che mi riesce a mezzo. Ma io dico solo una cosa, dico, ma insomma, valutasemo bene. Hai visto che è tutto aumentato poi. Poi bello un'altra cosa, oh, Roberto, oggi sono dovuto uscire a pigliarmi un gaggio grattato, il grana padano, sono andato all'aerospin. Allora, il duetti costava, già grattugiato, 2,79 euro, quello da un etto, stesso musa uguale, stesso grana padano, costava mi sembra 1,15 euro, ma io ci ho detto, cazzo mi conviene più due macchie da un etto, ma chi? Risparmio il più di bene con due etti sigillato. Oggi sono andato e tutto ci ho andato. Ti disse che non comprare quello da 20 perché quello da un etto è aumentato con me. Pagavo più di 3 euro con due bacche da un etto. Canto giù figliore di buona donna, ga. Dai, io non si faccio così, dai. Adesso ti parlo un'altra cosa io. Compro un bel pezzo di grana padano stagionato, me lo grattugio in casa. Chi so che ricevi una trombiata e posso prima, va basta. Non si può più comprare nulla. E tu a tu, tu di Matteo sei un bel di Napoli, un pezzino buluca. A voi è il fin di Mulina, è stato per travaglio il casino. Lo so, è un casino, sì, vai e dirò al suo governo che viene, ho visto che viene prima, per carità. Un casino no, qui non è un casino a me, e adesso tu fai un momento, sto andando in campagna a travagliare. C'è crisi perché me ne accorgo anch'io. Io sono in pensione e tu, prendo la bella pensioncina, però qualche lavoro a conto mio me lo faccio ben volentieri, ma c'è crisi anche lì, nessuno ne c'ha mente. Ma guarda, io chi si politicante, sono più pagliacci dell'altro, guarda, più pagliacci dell'altro. Poi questo Landini, segretario della CGIL, che tanto fa vita, e gli ho scritto su Facebook, ma perché non lo dice agli operai, che prendi 7.300 euro al mese, vergognati, brutto puzzoloso che non è altro. No, sei più basso. Certo che ti sento, la radio ormai è più grossolana pure. Sempre dalle 15-20 mila euro al mese, figliori, non ne facevano un milione all'anno, come ero dichiarato che non so che anno facevo un milione di figli, mentre adesso sono soltanto 230.000 in tutta l'Italia all'anno. E figliori, riuscire ai 5 milioni o 10 milioni, se prendevamo lo stipendio che prendono i ministri. Poi, ancora non ho capito un'altra cosa, che l'Africa in Europa non ci sta, cioè in Italia non ci sta, sempre che il tuo cacchio di extracomunitari sono le vende, mandi limoni, fra poco ce ne troviamo anche dentro il gabinetto, ce ne troviamo di cucù, sono troppi, niente, e continua a venire, avanti Robè. Aspetta, Conte, io lo odio, se lo vedo lo sparo in bocca e le faccio uscire i proiettili verso il basso. Perché se ricordi bene, Robè, questo cavolo di Conte a noi ci ha serrato in casa, ci ha buco la muso a ruola, ci è uscito di bicicletta e i carabinieri, ma si è sentito una di buccia, un verbale, dove sei andato? Ma non c'è carabinieri, dai, copri il fuoco, Poi ricorda una cosa, il vaccino, perché sei obbligato a farlo? Se lo facevi, ti arrivava la multa a casa. Ma se è un vaccino, perché prendi il Covid? E allora non è un vaccino è per prevenire il Covid. Siccome erano esperimenti, che poi a una dietro ammazzata, che senza fare un'analisi se può sopportare il vaccino, niente, viene vazia e boh, troppa gente è morta, Robè. Io queste cose non me le posso dimenticare. No, però l'ha fatto no. Da poi a me fa una cosa, veniamo in un questo, toccati dall'alto, si chiama, noi siamo in mano a chi abbiamo. Beh, basta farlo togliere fuori da questo lato, così ha fatto un fatto fisso, a vita, ma non c'è gallare, ci avrei continuato a male qui, ecco perché stiamo andando male. Adesso ho paura che questi terroristi vengono anche in Italia a fare gli attentati, a me fa forza, se muore c'è in mezzo, come trombe di simbolo, che se la pigliano luci. Quando c'era l'ISIS lo stesso ha detto, venite al governo in Roma, mettete la bomba, a chi ci vuoi tutti imparati e ammazzati, la mazza gliene varia. Poi contro Putin, Putin un signore, confronta a chi ci viso a paccare dai nocchi, è un super signore Putin, manca paragone. Dico l'amauzzo di Zelensky se vuole incontro la Russia, ma non si passa la vagogna, infatti si vede, città distrutte.